674. Bavarese Lombarda. Questo dolce, a cui danno diversi nomi, si potrebbe chiamare il piatto dolce del giorno, visto che è bene accetto ed usato spesso in molte famiglie. Burro di buona qualità e ben fresco, grammi 180. Zucchero a velo, grammi 180. Savoiardi lunghi o pan di Spagna, circa grammi 150. Rossi d'uovo assodati, numero 6. Zucchero vanigliato, quanto basta per dargli l'odore. Rosolio, quanto occorre per intingere leggermente i savoiardi. Fate bollire le uova per soli 7 minuti e, levati nei rossi, stemperateli nel burro. Poi passateli dal setaccio, indi aggiungete lo zucchero a velo e il vanigliato e lavorate molto il composto col mestolo per mantecarlo. Prendete uno stampo, possibilmente a costole, bagnatelo col rosolio, tagliate a metà per il lungo i savoiardi e intingeteli leggermente nel rosolio oppure metà nel rosolio e metà nell'alchermes e con questi foderate lo stampo alternando i due colori. Poi versate nel mezzo il composto, copritelo con altri savoiardi intinti anche questi, lasciatelo per 3 ore almeno nel ghiaccio e servitelo. La composizione, se tornasse comodo, può farsi un giorno per l'altro e questa quantità basta per 8 persone. È un dolce molto fine.